ho una buona ragione per ricordarmi qualcosa di un fumetto pubblicato negli anni 60. Credo fosse della serie di Iacula, una storia in vera e conda tra sesso e truculenze, incentrata sulla figura di un violinista. Perdeva una mano e vedeva così andare in fumo ogni promessa di carriera. Un tale tuttavia gli proponeva di attaccargliene una nuova, recuperandone una nel vicino cimitero. L'operazione riusciva, ma siccome il cadavere defraudato era quello di un assassino, ecco che il violinista diventava assassino anche lui. Non so più come finiva, ma finiva male. Occhio e croce, anche riandandoci ora con la memoria, in considerazione dell'inverosimiglianza banale della storia, mi ritengo ampiamente giustificato nel dimenticarne la maggior parte dei dettagli. Come mi ritengo ampiamente giustificato nel ricordarne uno, un dettaglio piuttosto rilevante, costituito dal nome del chirurgo, ecco, perché questo chirurgo si chiamava dottor Accame. Si trattava evidentemente dello scherzo di un amico che, per quanto intellettuale ambisse ad essere, viveva scrivendo sceneggiature per fumetti scadentucci. Il tema della mano dotata di autonomia, tuttavia, veniva da lontano. Nel 1852 Gérard de Nerval scrive La mano incantata, dove si parla di un debito non pagato e di una mano che, agendo per conto proprio, schiaffeggia un magistrato e fa finire il suo ignaro proprietario, già accusato peraltro di omicidio, fin davanti al boia. Boia che sarà costretto a tagliarla via dal corpo del giustiziato per liberarsene. Ispirandosi, diciamo molto liberamente, ispirandosi a questo racconto di Nerval, nel 1943 Maurice Tourneur ha diretto La mano del diavolo, un film con Pierre Fresnay. Nell'81 poi anche Oliver Stone ha diretto un film intitolato La mano, che era basato su di una trama che presentava parecchie analogie con i modelli precedenti, a partire da una mano che viveva la sua vita raddrizzando i torti subiti dalla persona di cui lei faceva parte. Così una mano staccata dal corpo è anche al centro di un altro film ancora con il medesimo titolo, La mano, questa volta diretto da Henri Gleizer nel 69. E così ritroviamo anche una mano a piede libero, mi si passi la metafora, nell'ultimo film di Arau, quello con Woody Allen, Ho solo fatto a pezzi mia moglie. Evidentemente il tema pesca nel profondo e nell'ideologicamente consolidato. A sorreggere l'idea di un corpo smembrabile in corrispondenza di una morale altrettanto smembrabile e a conferire ad un segmento particolare di questo corpo, la mano per l'appunto, uno statuto privilegiato, sta tutta una letteratura diffusa e una tradizione popolare di lungo corso. Il chirurgo sudafricano Chris Barnard, effettuando nel 1967 il primo trapianto di cuore umano, ha legato il suo nome ad un dibattito ideologico di cui ancora oggi siamo solo agli inizi. Fino a che si trattava di denti o di peli più o meno superflui, i comitati etici tacevano, ma con il cuore sarebbe parso evidente anche ai più ottusi che ci si buttava in un vicolo oscuro che non si sapeva bene dove potesse sbucare. Ora Barnard, Ora Barnard dice che il trapianto di mano non si deve fare, che chi riceve la mano altrui deve sottoporsi alla somministrazione di potenti immunosoppressori e che da ciò potrebbero, detto in breve, potrebbero derivargli le sette piaghe d'Egitto. Barnard porta dunque ragioni di ordine biologico a sostegno di una tesi che in altri tempi avrebbe fatto ricorso a tutt'altre argomentazioni. A ennesima riprova che le idee pronte a riespandersi sopravvivono in nicchie culturali spesso ignorate, tuttavia al contempo con la recente dichiarazione di Barnard dobbiamo anche fare i conti con i problemi di due trapiantati attuali, non personaggi da racconti a fumetti, ma due persone in carne e ossa, magari non tutte proprie. Sia ad un americano di nome Scott che ad uno neozelandese di nome Hallam, a quanto pare, sono state attaccate mani di assassini. Ma mentre al primo la cosa pare fino ad ora del tutto indifferente, il secondo, angosciosamente schifato, sta pregando i medici di riamputargliela. Sa che è la mano di un assassino e più la guarda, più se la stropiccia con quella innocente, più la teme, meno vorrebbe averla. La lava e la rilava, ma la colpa, anche se la colpa altrui, non va via. L'animismo ritorna trionfante, percorrendo una delle infinite vie disegnate dall'imprescindibile esigenza di togliersi di dosso sempre e comunque il peso delle responsabilità.